Signore e signori, le sette spaccate sul meridiano di Greenwich che passa dagli studi di Rock FM. Una buona giornata dalla voce del DJ Ariele. Andiamo a cominciare una nuova diretta, una nuova avventura. Quest'oggi puntatona, numero 19. È giovedì, nello specifico, giovedì 27 di settembre. Quest'oggi ne sentirete di cotte e di crude, no, perché gli altri giorni invece no, eh. Sì. Ciao dall'Ariele, tenete duro amici, amiche anche voi, ce la faremo fino alle 9. Pane, burro e rock and roll, sarà dura ma insieme ce la faremo. La tua colazione rock, ah sì sì. Pane, burro e rock and roll, con noi anche Mr. Spadino e a Roberto Freak Antoni. It's very good indeed. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Yo, yo. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM, il programma più ascoltato delle mattine radiofoniche italiane. Si chiama Pane, Burro e Rock and Roll. No, non è vero che è il più ascoltato, però è il più bello. In diretta dagli studi di Rock FM, da una Milano cupa, da una Milano oscura, da una Milano ancora sotto una pioggerella. Voi che state qui, non so come sia dalle altre parti, non ho ascoltato i meteo, però voi in giro per Milano andate piano, non fate gli scemi, vi conosco, non tuffatevi nelle pozzanghere come faccio io, che c'è il famoso e tremendo fenomeno dell'aquaplaning. Lo dico solo perché mi piace dire aquaplaning, lo confesso. 2 ore a disposizione, oggi più che mai puntata ricca di sorprese. Intravedo la nostra redazione con 2 chitarrine già pronte. E questo è un bruttissimo segno per chi conosce la nostra trasmissione, quando girano un paio di chitarre, quando c'è il maestro Freak Antoni in circolazione, aia aia, scatta la versione italiana, che tanti di voi odiano, ma che in realtà anche tanti di voi amano. Va bene, sarà tanta la carne da mettere al fuoco. Sarà una grande 19ª puntata di Pane, Burro e Rock and Roll, che va a cominciare così. Some people call me the space cowboy. Yes, I am the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Sì, il gangster dell'amore. Some people call me Maurice. Woo-woo. I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby. I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my lovin' on the run. Ooh. Music in the sun. Yeah. I'm a joker, Say I'm doing you wrong. Well, don't worry, no, don't worry, mama. Don't worry, mama. 'Cause I'm right here at home. Woo, woo. You're the cutest thing I ever did see. Really love your peaches, wanna shake your tree. Chiediamo scusa a Steve Miller e alla sua banda, che sfuma così. Gli abbiamo un attimo rovinato questa The Joker. Gran pezzo d'inizio, Spadino, complimenti. Mi hai svoltato la giornata subito così. Bravo, bravo. Parlo direttamente al mio regista. Il Lampione Crepuscolare è lì, come un dio artificiale che ci guarda, e finché resta acceso lui noi stiamo abbastanza tranquilli. È che tra un po' mi sa che si spegne, eh? Anche se Milano è talmente scura che se i radioascoltatori hanno ragione e quell'affare si spegne sentendo la luce, cosa della quale, perdonatemi, non ci credo ancora fino in fondo, però dovrebbe essere così, potrebbe resistere ancora un po'. Quest'oggi non si scherza. Puntatona seria, vedo con molto immenso piacere che partono già i primi contatti e vedo con altrettanto piacere che i primi contatti già accennano all'evento di questo weekend, questa domenica, questa follia di pane, burro e rock and roll, di organizzare un primo raduno ufficiale per la presentazione della patente Davvero Rocker di domenica sera. Pensateci ragazzi, una trasmissione che va in diretta alle 7 del mattino, questa implica il fatto che l'abbiamo deciso pensando, beh, poi dormiremo 3 ore, ma fa niente, no? E vedo con piacere che state accettando la sfida. Complimenti anche al tempo, perché sarà bellissimo, lo so già. Ricordatevi solo una cosa, patente bagnata, patente fortunata. Andrò a salutarvi con calma, a leggere i vostri messaggi nel corso di queste 2 ore. Intanto ne approfitto per ricordare la nostra linea di contatto, domande, lamentele, risposte, a quale gruppo d'ascolto appartenete, avete qualche esame da fare. Ecco, con questo parto subito, chiedo scusa agli altri, ma strombazzo al volo Angelo, ci dà il buongiorno. L'esame di mercoledì scorso ho preso 20 e ho accettato, e hai fatto bene. E oggi ne ho un altro e domani altre 2. Fatemi un in bocca al lupo. Ecco fatto, Angelo. Io non voglio offendere i nuovi studenti, ma questa cosa di fare 3 esami in una settimana, perdonatemi, ma ai miei tempi era un po' difficile. Non voglio dire, perché anche il nostro stagista della redazione, l'altro giorno, no, 4 esami ho fatto, tutti ieri. Come fai a fare 4 esami in un giorno? Però Angelo, saranno le riforme, che ne so, roba nuova. Va bene, tenete duro, cari studenti all'ascolto, perché c'è Mister Trombetta che vigila sopra di voi. Dicevo, il numero di SMS, semplicissimo, 335-100-7777. È giovedì oggi, c'è il lotto. Ma intanto c'è il reparto discoteca. Accendete la mirror ball che si balla, via. Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I get my share, and that's one thing I never meant to do. 'Cause I love you, oh, oh, oh, baby, don't you know I'm human? I have thoughts like any other one. Sometimes I find myself long regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Una splendida, una meravigliosa, una gioiosa giornata a Roberto Fricantoni, rocker di riferimento di Pane, Burro e Rock and Roll. E naturalmente Roberto Fricantoni ricambia di cuore. Bravo. Con slancio e sentimento. Bravo. Buongiorno. Bravo. A tutti radioascoltatori e radioascoltatrici di Pane, Burro e Rock and Roll. Inizio quest'oggi, sì, 27 settembre, sì, in maniera super prolissa. Ovvero? No! Ma sì, mi vi do una allora notiziona. Che succedeva? Partiamo con l'almanacco, sì, nel caso specifico, e vi dico che nel 1908, sì, quest'oggi, sì, il 27 settembre, venne costruita la prima Ford modello T. Ai, ai, ai, ai, ai. Ed è una data storica, amici, per l'evoluzione dell'umanità. Mai infatti nascosta la passione del maestro Roberto Fricantoni per le grandi invenzioni della storia. Ci infatti, dica cosa ne sa. Infatti vorrei dirvi che... Ma Ford era il signor Ford? Sì, era il signor Ford di Detroit, che in gioventù aveva, sì, fatto l'orologiaio. Ma dai. Sì, l'aggiustatore di orologi per mantenersi. Hai poi capito? Conobbe un commerciante di carbone abbastanza ricco, sì, che credette in lui. Sì. E decisero di fare degli orologi a carbone. No, non esattamente. Non esattamente. Lei ci è andato vicino, ma non esattamente. Gli dette una certa cifra e Ford, che aveva la passione, era un meccanico autodidatta, sì, aveva la passione delle automobili, cominciò a costruire i suoi prototipi di automobili. All'inizio costruiti in maniera artigianale e poi finalmente arrivò il modello T. Proprio il 27 settembre del 1908. Perché è così importante il modello T? Perché? Perché segna l'inizio della produzione a catena, la catena di montaggio, così esecrata naturalmente dai lavoratori per gli effetti collaterali, ma fu un'invenzione geniale perché permise all'umanità di avere delle automobili a basso prezzo. Evviva il signor Ford, lei è partito con una invenzione, io le controbatto allora con un fatto storico. Era il 27 settembre del 1964 quando viene pubblicato il rapporto della commissione Warren, che concluse che Lee Harvey Oswald, agendo da solo, assassinò il presidente JFK, John Fitzgerald Kennedy. Era stato lui da solo? No, ma dove volete andare? No, ma no, assolutamente. Questa versione è stata poi si arrabbi. È stata contestata decine, centinaia di volte. Pare che ci fossero diversi assassini appostati in vari punti. C'era sul luogo del delitto. C'era forse l'FBI dietro? Probabilmente. Perché non possiamo sapere? C'era forse la mafia dietro? Perché non ce lo dite chiaramente? C'era forse Corona dietro? Sicuramente già Corona, il nonno di Corona, era pronto con le sue... A scattare le fotografie. Esatto, con i suoi flash a scattare le fotografie. Da Pane, Burro e Rock and Roll il messaggio è sempre uno: vogliamo sapere tutto. Basta con i misteri di Stato, basta con i muri di gomma. Bravo Frick. Era il 27 settembre del 1964 quando i mitici Beach Boys fanno la loro prima apparizione all'Ed Sullivan Show. Lei c'è mai stato all'Ed Sullivan Show? No, per un pelo, guardi, avremmo voluto. Mi ricordi ma almeno poi... una trasmissione televisiva che ricorda? Sì. Una sua apparizione. Sì. Aspetti. È mai stato su qualche canale? Canzonissima. Canzonissima. lei è mai stato a Canzonissimo? Non dica, glielo leggo negli occhi, che sta inventando di sana pianta. E è cresciuto il naso. Sì, un po' così. Un pochino, basta giocare con questa cosa. Fricantoni è un grande artista. Ricordiamo, una trasmissione, una tele locale bolognese ci sarà stata, che le ha fatto un'intervista. Telezocca, quella di Vasco. Vasco ha una televisione. No, è nato voleva a Zocca. Sì, voleva farlo, comunque è nato a Zocca e naturalmente Telezocca è sempre nei nostri cuori. Glissiamo, era il 1970, scherziamo ovviamente. Ovviamente. Decine di trasmissioni, sia Fricantoni che gli Schiantos. Esatto, e con la notizia di chiusa, secondo me, ribaltiamo gli ascolti. Nel 1998, oggi, nasceva Google. Lei sa cos'è Google? Lei voleva dire Google, dica la verità. Mike, buongiorno, si impossessi di quest'uomo. Trum! Allora, eccolo lì. Abbiamo Google. Cos'è Google? Ce lo dica. Google, è motore di ricerca, colpo di scena. Lei lo sa? Ultimamente contestatissimo. Perché? Dalla Cina, Sì? Perché è considerato responsabile, sì, di aver fatto il soffione. Ai. E lo spione, sì, ecco, rivelando nomi e cognomi. Che peraltro difficilissimi. Ching, chang, chung, ting, wai, yong, ding. Lei sa come fanno a battezzare i bambini in Cina? Me lo dica, la prego. Quando nasce un bambino o una bambina, prendono uno scatolone di pentole, sì, lo buttano dalla sommità di una scala. In base al suono onomatopeutico. Posso chiudere io? Chiedo scusa a tutti i cinesi in ascolto. Scusate, mi sono lasciato andare. Allegria. Allegria, e perdonatemi, venga qua sul cerchietto che le tiro le orecchie, DJ Ariele. In this world, if you bring the papers down, you know everybody's fine. You got no one you could count on, baby, not even your brother. So if someone comes along, he gonna give you some love and affection. Taking a gamble on a little song. We'll be right back. Ladies and gentlemen, Janis Joplin. Get it while you can. In un'orgia di pelle d'oca, ma che dico pelle d'oca? Di mochetta sopra le braccia. Ve l'avevamo detto, in questo giovedì non si scherza. Pane, burro e rock and roll con l'Ariele, Spadino e Fricantoni. Prosegue il momento mochetta sulle braccia. In maniera dolce, in maniera soft. Sperando che torni la luce anche in città. Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Nella dura battaglia Davide contro Golia, solo noi abbiamo il buon gusto di programmarla per intero. Sì, non la tagliamo alla solo, come fanno gli altri. E siamo filologici. Ancora buona giornata, amici. Sono le 7 e 21 minuti primi e su Rock FM tutto va bene. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have meaning. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts. Thank you.